Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Riding the dawn. right. Get the DeLorean and get ourselves back to the future. Oh, listen, Doc, I tore a hole in the gas tank when I was landing, so we're going to have to patch it up and get some gas. You mean we're out of gas? Yeah, it's no big deal. We got Mr. Fusion, right? Mr. Fusion powers the time circuits and the flux capacitor. But the internal combustion engine runs on ordinary gasoline. It always has. There's not going to be a gas station around here until sometime in the next century. And without gasoline, we can't get the DeLorean up to 88 miles per hour. So what do we do? Shining like a work of art, hanging on a wall of stars. Are you what I think you are? You're Sapete, mai avrei pensato che in Eclettica avrei trasmesso un brano di Raffaella Carrà. Però prima di farlo vi devo annunciare che cosa vi siete ascoltati fino ad ora in questa seconda parte. Seconda parte fra le 19.30 e le 20, in quanto Eclettica va in onda sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni fra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni. Vi siete ascoltati in apertura di questa seconda parte i bolognesi Joycat con Shake Your Shape, per poi proseguire con i Gaster, che hanno appena chiuso con Satellite. Vi dicevo di Raffaella Carrà, quindi. Raffaella Carrà che ci ascoltiamo con Rumore. Ma non ci ascoltiamo Raffaella, la Raffaella nazionale, noi ci ascoltiamo la band milanese di nome Madame X, il cui cantante è Alessandro De Benedetti, che è anche uno stilista. Infatti il video di questa canzone esce in combinazione anche con una micro pochette con un rossetto, una cosa abbastanza particolare. Se cercate con un motore di ricerca troverete dettagli maggiori. Comunque questa versione così, che rende omaggio agli anni 70, non mi è dispiaciuta, ed è il motivo per cui ve la ritrovate nelle playlist di Eclettica. Roll it down a steep hill. No, we never find a smooth enough surface. Unless, of course, ice. We'll wait until winter, when the lake freezes over. Winter? Doc, what are you talking about? Monday, it's 3 days away. All right. Just let's think this thing through logically. We know it won't run under its own power. We know we can't pull it. But if we could figure out a way to push it up to 88 miles an hour. Huh? That's it. feci il mio primo sogno Yasmuda, come li battezzò Danny, a Milano. Una notte d'inizio primavera in cui ci eravamo addormentati con le finestre aperte per la prima volta dopo un freddo inverno. Stavo guardando fuori dal finestrino di un aereo che sorvolava in cerchio un aeroporto sconosciuto. Voltandomi, mi accorsi di un bambino seduto accanto a me. Era mio figlio. Si chiamava Pepsi e sembrava un piccolo irlandese, riccioli castani e occhi azzurri traboccanti di curiosità e malizia. Gli misi subito un braccio sulle spalle e lo trassi verso di me perché potesse guardare fuori anche lui. Mentre l'aeroplano iniziava l'atterraggio, gli dissi: «Ricordo che il mare era pieno di pesci dei nomi misteriosi, mudraghi, gocce di grano, Yasmuda. La nostra vita era lenta e tranquilla. Le nuvole si srotolavano in cielo come lunghi nastri, accompagnate da una malinconica musica cristallina. Tuo padre aveva una macchina sportiva che ronzava come un'ape felice e mi portava sempre in giro dappertutto, dovunque volevo». Tutto qua. Non successe altro, o perlomeno, quando mi svegliai il mattino seguente, non ricordavo altro. Danny era già in piedi e dopo che gli ebbi raccontato il mio sogno tutta eccitata, il suo unico commento fu: «Pesci Yasmuda». Questo era ancora Ossi di Luna, di Jonathan Caro. discutibile come questa sera io stia sottolineando il nome della trasmissione con l'estrema varietà delle scelte e il fatto che queste scelte a volte siano davvero estreme, come la cover di Raffaella Carrà, come il brano che sta per arrivare, ma sono brani che hanno una loro logica all'interno di Eclettica, che contribuiscono a creare quell'atmosfera che Eclettica cerca appunto di creare, non solo grazie alla musica, ma anche agli sprazzi cinematografici e alle letture. Sono stati abbastanza energici i brani che ci siamo ascoltati, sia quello dei Clip Bakes che ci siamo appena ascoltati e quello che l'aveva preceduto, ovvero sia i Siberian. Ma ora è il momento del tango. Sì, è il momento del tango. Infatti mi è arrivata una compilation che si intitola Tango Around the World. Ci sono artisti di tutto il mondo che interpretano la musica argentina, dal Brasile alla Norvegia, alla Finlandia, alla Grecia, alla Serbia, al Portogallo, il Senegal. Ma io sono andato a scegliere quella che ho ritenuto la traccia più interessante, che, guarda caso, arriva proprio dall'Argentina. Lui si chiama Melingo e ha alle sue spalle una lunga carriera rock. Si è avvicinato solo da poco ai tanghi e alle milonghe. È stato paragonato anche per la sua voce profonda ad artisti come Tom Waits e Lou Reed, con beneficio d'inventario. Sapete, questi paragoni, insomma, si reggono sempre un po' con gli stecchini. Noi però qua in Eclettica abbiamo la possibilità di farci un parere personale ascoltandocelo assieme a Florencia Bonadeo con Leonella il Feo. Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milón en la esquina o en el bar, sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno. Te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso. Eclettica. Stagione numero 14, settimana numero 7, volume numero 3, indice. Kelly De Martino, Juliana Berwick, Side Track, Ungdomsskolen, The Keith John Adams, Fireflies, Joycat, Guster, Madame X, Siberian, Clipped Bakes, Melingo con Florencia Bonadeo. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.